Sui treni intercity attuali, quelli per i quali occorre pagare il supplemento rapido, i vagoni sono di due tipi. C'è il vagone a scompartimento tradizionale, 6-8 posti, due serie di poltrone frontali, no? E c'è quello aperto, due posti ad un finestrino, quattro posti al finestrino opposto, sempre frontali, con un divisorio a metà vagone per favorire la separazione tra fumatori e non fumatori. Come spesso capita in altre situazioni fisiche, questi due vagoni diversi inducono comportamenti diversi. Nel vagone aperto, per esempio, diminuiscono sia la chiacchiera associativa fra sconosciuti che i movimenti autonomi, diciamo, di riadattamento, anche di rilassamento. Si è tutti potenzialmente sotto lo sguardo di tutti e ogni approccio può essere giudicato. Così di ogni movimento c'è chi fa filologia, diciamo. Nel vagone a scompartimenti, invece, sembra più che legittimo guadagnarsi pause di privatezza uscendo sul corridoio, così come la circoscrizione della chiacchiera in uno spazio apparentemente chiuso le conferisce aura di normalità sociale e di onorabile convenienza. Più o meno si tratta delle medesime reazioni comportamentali che hanno convinto molte aziende a costringere i propri impiegati nel cosiddetto open space, no? O spazio aperto, in alternativa ai singoli uffici segregati. Sembrerebbe che la produttività sia destinata ad aumentare. Nei giorni scorsi sono al mio solito treno e da ansioso che va in stazione mezz'ora prima della partenza, arrivo sul posto, sul mio posto prenotato, in un vagone che è open space e che è ancora deserto. Arrivo per primo. Il secondo arrivato, dopo un paio di minuti, sorpresa, sembrerà strano, ma è un tipico emarginato senza ritorno, un classico barbone che si trascina, barba lunga, abiti laceri, storica sporcizia, tutti i suoi averi consistenti per lo più in giornali vecchi e stracci, in una miriade di sacchetti di plastica da supermercato. Mi guarda, non si scompone della mia presenza, sistema in alto i suoi sacchettini dove di solito si mettono le valigie, si accomoda al finestrino opposto al mio e chiude gli occhi beato. Siamo in prima classe, fa caldo, ma l'aria condizionata non funziona lo stesso. Comincia ad arrivare gente. Il vagone si riempie. Qualcuno guarda il barbone ad occhi chiusi con un pizzico di perplessità, ma poi, siamo tutti sotto gli occhi di tutti, e quindi assume il tipico contegno di chi si occupa degli affari suoi. Più perplessi sono i viaggiatori che hanno prenotato i posti accanto a lui, ma dall'alto di un consumato mestiere fingono l'indifferenza della più consolidata democrazia. Anche il posto occupato dal barbone è prenotato, il cartellino giallo farebbe bella mostra di sé sulla spalliera, ma stranamente nessun altro viaggiatore arriva a reclamarlo. A meno che la prenotazione non sia proprio la sua, questo è il primo colpo di fortuna del barbone, che continua a non dare alcun segno di sé né della propria percezione del mondo. Dopo un po' il vagone è pieno, c'è gente che passa e ripassa in cerca di un posto. Fra costoro che sono sospesi si pone in evidenza una signora ingioiellata che pare inviperita perché è stata scalzata dal legittimo prenotante da un posto che lei aveva occupato, ahimè, abusivamente. Osserva indispettita il barbone e fa 2+2. Lei è in piedi, senza posto. Lui è seduto. Lei è lì, che non sa dove mettere valigia e beauty case, mentre i sacchetti di plastica rallegrano i poggiavalige come gerani in fiore su verande primaverili. Inizia un monologo contro le ferrovie dello Stato, la signora, e garantisce noi tutti che d'ora innanzi prenderà soltanto l'aereo. Ma intanto è lì. E per quanto possa essere una vergogna per un paese civile, è in piedi. E se dipendesse da me e dagli altri 70 passeggeri che l'ascoltano, in piedi ci rimarrebbe. Il treno parte e lei, unica e solitaria, rimane lì in piedi, in quell'open space che di solito sconsiglia le permanenze e implicitamente suggerisce di andare ad accamparsi nel corridoio di un vagone a scompartimenti, in modo da non rimanere sotto gli occhi di tutti. In una reiteratissima e insofferente domanda della grazia di un posto a sedere. Lei sta lì perché ha fatto i suoi calcoli e tutti gli altri passeggeri, meno uno, hanno capito benissimo che calcoli ha fatto. Aspetta il controllore, ovvero aspetta la mannaia della giustizia di classe che riconduca alla seconda chi in prima proprio non ci dovrebbe stare, ovvero quell'unico passeggero che se ne sta fregando ampiamente dei calcoli della signora e che, beato, sta viaggiando verso la sua meta fiducioso come un bimbo ad occhi chiusi. Sbuffa anche la signora e si fa aria con un fazzoletto, come a dire: occhi al cielo che qui qualcuno puzza. Ma lei rimane perché posti liberi non ce n'è, e lei, dall'alto di una consumata esperienza di come vanno le cose al mondo, sa che lì c'è un posto sicuro per lei, è questione di minuti. Con soddisfazione di tutti, il controllore è arrivato invece dopo una buona mezz'ora e ha cominciato a controllare i biglietti, prima la sua sinistra, il mio e quello di chi mi stava di fronte, poi ai tre dalla parte opposta che diligentemente hanno porto i loro. Intanto il barbone non aveva ancora mosso un sopracciglio. Al momento in cui il controllore stava per rivolgersi a lui, a me è venuta così l'irrefrenabile curiosità di sapere se la timbratura andasse posta anche sul biglietto del supplemento rapido, non solo sul documento di viaggio vero e proprio. Gliel'ho chiesto. Lui si è girato, mi ha risposto di sì. Io gli ho detto che la norma mi sembrava peraltro discutibile. Lui mi ha detto che non avevo tutti i torti. Abbiamo celiato un po', l'ho ringraziato dell'informazione e ci siamo salutati cordialmente. Ha proseguito davanti a sé, dove è incappato nella signora in piedi, che aveva due occhi come inceneritori, alla quale ha subito chiesto di esibire per favore i documenti di viaggio. Poi, controllati quelli, ha tirato diritto, senza che la signora, sempre più confusa, avesse il coraggio di ricordargli che si era dimenticato di chiedere i biglietti ad un viaggiatore. Mortificata dalla sorpresa che a volte le cose al mondo non vanno affatto come te le aspetti, dopo 5 minuti di un'attesa ormai priva di senso, ha raccolto le sue eleganti borse e si è allontanata verso corridoi più appartati, dove nessuno avrebbe potuto vederla, sapendola sconfitta.